falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di una giornata terribile, una di quelle che hanno cambiato la storia quantomeno della musica, l'8 dicembre del 1980, ma è anche una puntata che è un'esplorazione all'interno di una mente distorta e malata che programma coscientemente uno dei delitti più efferati della storia moderna. Siamo a New York, come ho già detto, siamo l'8 dicembre dell'80 a Manhattan, all'esterno del Dakota Building che si affaccia su Central Park. Sono le 22:52 e nel silenzio riecheggiano 5 colpi di pistola a distanza ravvicinata. Un corpo vacilla e cade a terra e di fronte il suo assassino resta impassibile. In quello stesso istante a Miami, all'Orange Bowl Stadium, si sta giocando la partita di football tra i Miami Dolphins e i Patriots. Improvvisamente il radiocronista Howell Coswell si ferma e fa un annuncio terrificante, l'annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire. È il primo a dare la notizia terribile di quell'8 dicembre. Ricordiamoci che questa è solo una partita di football, non importa chi perde e chi vince. Mentre devo dare una notizia di una tragedia indicibile, confermata in questo istante dall'ABC di New York. John Lennon è stato ucciso all'esterno della sua abitazione, il Dakota Building nel West Side di New York. Forse il più famoso dei Beatles, colpito alla schiena da alcuni colpi di pistola, trasportato d'urgenza al Roosevelt Hospital, ma arrivato morto. È dura tornare alla partita dopo questa notizia. John Lennon è stato ucciso. Queste terribili parole riecheggiano prima negli Stati Uniti e rimbalzano di emittente in emittente, poi con la rapidità inaudita delle cattive notizie anche in quel mondo ancora senza internet si spostano fino all'Europa e fino a tutto il mondo, che rimane attonito e senza parole. John Lennon è l'idolo delle folle, il paladino della pace che viene ucciso barbaramente. Buonasera. Milioni di persone piangono la morte tragica di John Lennon. I giovani e i meno giovani esprimono un senso di cordoglio per l'inspiegabile dipartita di Lennon, assassinato da un giovane che è stato un fan dei Beatles negli ultimi 15 anni. L'uccisione è avvenuta mentre Lennon e sua moglie Yoko Ono rientravano nel loro appartamento. Crowds gathered soon after and many just stayed outside. È difficile dire in poche parole chi era John Lennon. Intanto fece parte della più grande avventura musicale di tutti i tempi, quella dei Beatles, anzi ne fu parte un grande motore. Ma poi anche dopo lo scioglimento dei Beatles rimane un cantautore che scrive canzoni meravigliose e un grande propulsore di lotte sociali che cambieranno la storia dei decenni a venire. Le sue lotte contro la guerra, le lotte per la pace nel mondo, è anche un modo di proporre tutte queste sue battaglie assolutamente innovativo. Ricordiamo la conferenza stampa fatta da un letto di un hotel di Amsterdam insieme a Yoko Ono, le sue marce per la pace. Insomma, era veramente una spina nel fianco di una certa parte del mondo a favore di quell'altra parte. E poi c'è per esempio una sua canzone manifesto che in qualche modo ne riassume la sua filosofia. Imagine all the people. immagina non esista paradiso. È facile se provi. Nessun inferno sotto noi. Sopra solo cielo. Immagina che tutta la gente viva solo per l'oggi. Immagina non ci siano frontiere. Non è difficile da fare. Niente per cui uccidere e morire. E nessuna religione. Immagina tutta la gente che vive in pace. Lui la definisce una canzone antireligiosa, antinazionalista, antiedonista. In realtà è soprattutto un messaggio molto semplice di pace universale. Uno dei brani considerati più belli o comunque che cambiano la storia della musica rock. Esce il 9 settembre 1971, appena un anno dopo l'annuncio della fine dei Beatles, in pratica. Però c'è qualcuno che considera Imagine un tradimento dei propri ideali e John Lennon un grande bugiardo. Questo qualcuno è Mark Chapman ed è dalla sua mano che viene premuto il grilletto che la notte dell'8 dicembre 1980 uccide, come fosse una vera e propria esecuzione, John Lennon. Per comprendere, o almeno cercare di comprendere, le motivazioni di Mark Chapman, dobbiamo addentrarci nei meandri della sua mente malata. Per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo, quando Mark, che è nato il 10 maggio del 55 nel Texas, ha solamente 8 anni. I Beatles sarebbero venuti presto all'Atlanta Stadium per un concerto. Non ricordo se avevo chiesto a mio padre di portarmi oppure no, ma ricordo benissimo che gli dissi: per favore, comprami il loro album Meet the Beatles, il disco che ha i quattro volti sulla copertina. Mark è un ragazzino solitario, cresce in una piccola cittadina del Texas, nel cuore della cosiddetta Bible Belt, la cintura della Bibbia, che è un'area culturale strettamente cristiana, protestante, evangelica, quindi molto presente e intransigente con i propri fedeli. Lui è un disadattato fin da piccolo, si crea degli amici immaginari piuttosto che rapportarsi col mondo reale. Nel 64 arriva la sua svolta, come tutto il resto dell'America e del mondo si innamora dei Beatles, in particolare del loro enigmatico fondatore John Lennon. Da quel momento la sua vita diventa un'esistenza parallela a quella del grande musicista. Quello che fa John lo fa anche Mark, e naturalmente è una invenzione della sua mente distorta. Mark si identifica totalmente nel suo idolo e aspira alla sua stessa incredibile e irraggiungibile notorietà. E non è un caso che poi la storia abbia questo tragico epilogo. Certamente sono pazzo, ma ho deciso, lo ammazzo proprio mentre riposa. Rimetto a posto il corpo decomposto dalla rock and roll star. Ha preso il volo e guiderà da solo la Rolls Royce con il bar. Mi sento stanco, ma resto al suo fianco, mi sento più lui. È tutto mio, da solo lui e io nei momenti più bui. Falco e il Gabbiano. Stiamo ripercorrendo la pazzia di un uomo che riesce a portare a termine con lucida follia il suo progetto criminoso, quello di uccidere John Lennon. Vi aggiungo che la canzone che abbiamo sentito prima è del 78 ed è quella nella quale un fan ammazza la sua rockstar preferita. Questo per dire che secondo me questo atteggiamento di venerazione che sconfina nell'odio da parte dei fan nei confronti della rockstar poteva essere prevedibile. Mark è un ragazzo disadattato fino da bambino, cresce nella bigotta realtà dell'America protestante degli anni 60. Comunque il suo idolo è il grande John Lennon. Lui inizia a idolatrarlo e cerca di imitarlo in tutto e per tutto. Penso che la nostra società sia gestita da malati di mente per obiettivi folli. È una cosa che credo captavo già a 16, a 12 anni e fin da molto prima, ma la esprimevo diversamente da oggi. È sempre lo stesso concetto che esprimo, però, ma adesso l'ho tradotto in una frase. Penso che siamo gestiti da maniaci per fini maniacali. Se qualcuno può mettere nero su bianco ciò che il nostro governo e quello americano o russo o cinese stanno cercando di fare veramente e come e cosa pensano di star facendo, sarei lieto di saperlo. Penso che siano tutti malati di mente. Ma ecco, sono io quello che rischia di essere preso per pazzo da ricoverare, perché mi esprimo in questi termini. Ed è questo che è da malati mentali. Lennon non è solo un cantante, diventa ben presto un leader dalla personalità forte, esprime pareri di carattere politico, sociale, affronta argomenti profondi che riguardano l'essenza stessa dell'umanità. Alla fine degli anni 60 è uno degli uomini più famosi del mondo, è la voce di una generazione intera, esprime quello che la gente pensa e diventa una sorta di santo da venerare. L'ammirazione di Mark Chapman diventa maniacale, è un'intensità che sconfina nella malattia. Se da bambino vive un senso doloroso di disadattamento, adesso che è un adolescente si sente perfettamente inserito nel gruppo degli hippies, che è un'identità che gli deriva direttamente da John Lennon. La psicologa Susan Young, che studia le trascrizioni delle confessioni di Chapman, delinea un profilo preciso dell'assassino. Quello che voleva Mark Chapman era essere considerato così come era considerato John Lennon. Voleva la fama, il potere, l'ammirazione. Voleva essere riconosciuto. Ecco cosa voleva. E tutta la sua vita aveva una sola motivazione. Voleva un'identità di fama e notorietà. Le trascrizioni sono impressionanti per il loro livello di narcisismo. Non vi è alcun tipo di profondità emotiva. È tutto un io ho fatto, io ho detto, io. Questa ossessione narcisistica è sintomatica di un tipo di disturbo della personalità che è molto specifico, perché alla base c'è una bassissima stima di se stessi che porta a una costruzione per proteggersi da questa bassa stima, e questa costruzione è l'opposto esatto, cioè una specie di grandioso narcisismo autoreferenziale. Naturalmente è una costruzione molto fragile, perché vi è la coscienza che in realtà ci si considera meno di zero. Lui si sente una nullità, però non può ammetterlo con se stesso. Si costruisce un modello di vita da imitare, cerca di diventare qualcun altro, crede di diventare qualcun altro. Lennon è il suo alter ego, però naturalmente è un modello impossibile da eguagliare, e quindi Mark entra ed esce in continuazione da un grave stato depressivo, e forse per cercare di evadere da se stesso decide di cambiare vita, si trasferisce, trova lavoro a Honolulu nelle Hawaii come guardia giurata. Pensate, niente riesce a dare pace a Mark, neanche il lavoro. Tenta il suicidio nel 1977 e purtroppo per la musica fallisce. In realtà sono quei tipi di suicidio tentato che sono più una richiesta di attenzione, e infatti Mark Chapman sopravvive. Get too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't need when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Mark viene ricoverato in una struttura ospedaliera per malati di mente, ci rimane qualche mese, si trova piuttosto bene perché si sente al centro dell'attenzione, poi viene dimesso. E sempre più immerso nella sua ossessione nei confronti del suo idolo, nel 79 sposa Gloria Hiroko Abe, una ragazza americana di origine giapponese, e in pratica propone a se stesso un modello uguale a quello di Yoko Ono, la moglie di John Lennon. Anche il matrimonio però riesce a risollevarlo dalla sua depressione. A questo punto Mark trova un nuovo alter ego destinato a cambiare radicalmente il suo modo di vedere il mondo. In una biblioteca trova il romanzo di Salinger Il giovane Holden, e Mark incontra Holden Caulfield, che è il protagonista del libro, il sedicenne simbolo della ribellione e dell'angoscia adolescenziale. Holden Caulfield, il giovane Holden, è uno dei personaggi di maggior spicco della letteratura americana del XX secolo. La caratteristica fondamentale di questo personaggio è il suo odio profondo per la menzogna e per l'ipocrisia del mondo adulto. E per Mark Chapman, Holden diventa il nuovo modello di vita. I paragrafi e le frasi di quel libro mi fluivano nelle vene, entravano nel mio cervello e nei miei pensieri, nelle mie azioni. La mia anima finalmente respirava tra le pagine del giovane Holden. Ero arrabbiato con la gente, con la capacità che avevano tutti di mentire, di vivere le loro vite piene di bugie. L'ossessione di Chapman per Holden diventa drammatica. Tutti i giorni passa ore e ore in biblioteca a leggere e rileggere le pagine di quella che per lui è diventata una nuova Bibbia. Nelle sue peregrinazioni alla ricerca di libri di cui invaghirsi come se fossero donne, Mark fa un incontro che diventerà tragico. Mi imbattei nel libro John Lennon, One Day at a Time. Quel libro mi ferì perché mostrava un parassita che viveva la dolce vita in un elegante appartamento di New York. Mi sembrava sbagliato che l'artefice di tutte quelle canzoni di pace, amore e fratellanza potesse essere tanto ricco. La cosa che mi faceva imbestialire di più era che lui avesse sfondato mentre io no. Eravamo come due treni che correvano l'uno contro l'altro sullo stesso binario. Il suo tutto e il mio nulla alla fine dovevano scontrarsi frontalmente. John Lennon nel suo mito di adolescente diventa per Mark Chapman la rappresentazione di tutto quello che lui non sopporta più, e il successo del cantante è una denuncia dolorosa del suo fallimento, e lui legge una menzogna nella vita agiata del ricchissimo Lennon, e la menzogna, ricordate, è quella che Holden, il suo nuovo mito, disprezza più di ogni cosa. L'affermazione di Lennon, Dio è un concetto nel quale misuriamo il nostro dolore, stride con la religiosità bigotta di Mark. L'unico modo che lui conosce per vedere la luce alla fine del tunnel è proprio quello di uccidere il suo Lennon. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani, oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la discesa nell'inferno della follia di Mark Chapman. Chapman è l'uomo che, a seguito delle sue elucubrazioni mentali malate, arriva a compiere un atto terribile: ammazza John Lennon. Stiamo cercando di comprendere come la pazzia che serpeggia nei suoi pensieri lo spinga verso un gesto premeditato così terribile. Abbiamo visto che è affetto da depressione, da manie di persecuzione, ha tentato il suicidio, e lui vede in John Lennon, che prima ha considerato il suo grande idolo, il suo alter ego, un traditore, perché adesso è influenzato dal romanzo Il giovane Holden di G.D. Salinger. In questo romanzo il protagonista è un adolescente in conflitto con il mondo degli adulti, che viene ritenuto ipocrita e bugiardo. È un romanzo perfetto per la sua mente malata, perché Chapman dice: il mondo non mi apprezza, io sono un signor nessuno, ma perché sono sincero. E nel frattempo vede la sua controparte, il suo contraltare in John Lennon, che ha avuto tutto dalla vita, però è un grandissimo bugiardo, perché promuove la fratellanza tra i popoli e poi conduce un'esclusiva esistenza da nababbo. Ascoltavo Imagine e diventavo sempre più furioso con lui perché diceva che non credeva in Dio e che non credeva nei Beatles. Questa era una cosa che mi mandava in bestia, anche se il disco risaliva 10 anni prima. Volevo proprio urlargli in faccia chi diavolo si credesse di essere, dicendo quelle cose su Dio, sul paradiso e sui Beatles. Dire che non si crede in Gesù e cose del genere. A quel punto la mia mente fu accecata totalmente dalla rabbia. E qui sta avvenendo un turbinio di sensazioni, perché da un lato nella mente malata di Mark si fa strada il pensiero che solo uccidendo il suo ex idolo tutta la sua ansia potrà essere placata, però d'altro canto lui è un cristiano, un religioso fervente e quindi non può uccidere. Allora la sua mente si inventa il piccolo popolo, un gruppo di ometti immaginari con i quali lui interagisce e crea una vera e propria società che è composta da un popolo immaginario di cui lui è il presidente e comunica loro che intende uccidere John Lennon. Il piccolo popolo lo prega di non farlo, gli dice di pensare alla moglie, al figlio di Lennon, di pensare a sua madre, a se stesso, ma quando lui spiega al piccolo popolo di avere la mente in fermento e di non sapere più cosa fare, il piccolo popolo sparisce. Quindi tutto questo delirio fa sì che Mark cerchi aiuto nel diavolo, prega il diavolo di dargli la forza di uccidere. È una schizofrenica separazione netta tra due nature, da un lato il bugiardo adulto e dall'altro il bambino di Satana. Il bambino prega il diavolo e l'adulto prega Dio. Signore, aiutami, salvami Dio da questo. No, diavolo, aiutami. Aiutami, diavolo, dammi il potere di farlo. Voglio essere importante, voglio essere qualcuno. Non sono nessuno, non sono riuscito. Ho fallito in tutto. Lo voglio fare, lo voglio. E Mark si convince, la sua è una decisione senza via di ritorno. Compra una calibro 38, una pistola, parte per New York e John Lennon vive lì, a New York. Conduce una vita piuttosto normale in quegli anni. È da quando si sono formati i Beatles che lui non può uscire per strada, vive rinchiuso, è circondato da guardie del corpo. Però New York, in particolare Manhattan, in particolare la zona in cui lui vive, è diversa. C'è una realtà più tranquilla, c'è un rispetto per la privacy. New York corre, non si ferma tanto a chiedere autografi, riesce a vivere una vita tranquilla. Nasce il figlio Sean e lui si dedica completamente a questo bambino mentre Yoko Ono amministra i suoi interessi. Nel 1980 riprende a scrivere delle canzoni, ne scrive tante e bellissime, e sta per uscire, anzi esce un attimo prima del terribile giorno, Double Fantasy. Questo album fa presagire un grande ritorno del cantante che sta già programmando un tour mondiale. La mattina dell'8 dicembre Mark Chapman compra anche lui quel disco, lo stanno facendo tutti, e si avvia verso il Dakota Building dove abitano John Lennon e Yoko Ono. Ha con sé il disco e una copia del giovane Holden e si mette a leggere come al solito, come fosse ormai il suo personale delirante mantra. And he came out of the building. Lennon venne fuori dal palazzo e un fotografo che era lì, Paul Goresh, mi disse: vai, è la tua occasione, fatti autografare il disco. Io ero molto nervoso, mi ritrovai di fronte a John Lennon, avevo una grossa penna nera e gli dissi: John, mi firmeresti l'album? E lui rispose: ma certo. Yoko era entrata in macchina e John firmò il disco, scrisse John Lennon e poi subito sotto 1980. Poi mi chiese: è tutto? Vuoi altro? E io pensai allora come ora che lui sapeva qualcosa, sapeva inconsciamente che stava guardando negli occhi il suo assassino. La moglie è in macchina con la portiera aperta. Lui è un uomo impegnato, deve andare allo studio di registrazione. Sta parlando con un signor nessuno. Sta autografando un album per un nessuno. E mi chiede se è tutto. Mi ha fatto l'autografo. Non ho una macchina fotografica. Cosa potevo volere ancora? Beh, può darsi che Lennon capisca qualcosa, probabilmente rimane impressionato da una persona che lo guarda con una faccia presumibilmente molto strana, eppure in quel momento John Lennon si trova faccia a faccia con il suo assassino. Chapman non ha il coraggio di tirare fuori la pistola, non spara, la pistola rimane in tasca. Ma lui sa che la prossima sarà la volta buona. Rimane da solo con i suoi fantasmi e inizia l'ultima lotta fallimentare tra il bugiardo adulto e il bambino del diavolo. Uno vuole tornare a casa, l'altro insiste perché deve fare ancora una cosa, deve uccidere John Lennon. Carrying a gun. Carrying a gun. Carrying a gun. But don't you mess with me. I'm carrying a gun. Carrying a gun. Carrying a gun. Alle 22.30 dell'8 dicembre 1980 John Lennon e Yoko Ono lasciano la sala di registrazione dove stavano lavorando e a bordo di una limousine si dirigono verso casa, al Dakota Building. Ma Mark Chapman è ancora lì che li sta aspettando e lui ha sempre con sé il disco di Lennon, il libro di Salinger e il giovane Holden e la sua calibro 38. Ero seduto sotto l'arco all'ingresso del Dakota Building. C'era vento e il portiere stava passeggiando fuori. Vidi arrivare una limousine e, come sanno tutti da quelle parti, di auto così ne arrivano tante, ma io sapevo che era la sua. Mi alzai, la limousine si fermò, la porta si aprì e Yoko scese. John era un po' dietro. Salutai Yoko quando mi passò davanti, ma lei non rispose al mio saluto. John mi vide e penso che mi riconobbe come il ragazzo al quale aveva autografato l'album qualche ora prima. Mi oltrepassò. Io feci 5 passi verso la strada, mi girai, tirai fuori la mia calibro 38 e gli sparai 5 colpi nella schiena. And fired 5 shots into his back. Sono le 22.52, John Lennon ha il tempo di dire «mi hanno sparato», poi cade svenuto in una pozza di sangue davanti alla sua abitazione. Mark Chapman, il suo assassino, è immobile davanti a lui, con ancora in pugno la pistola con la quale ha sparato. Per terra, vicino a lui, il disco di Lennon con la firma autografa e una copia del libro «Il giovane Holden». Il custode del Dakota Building grida a Chapman: «Lo sai cosa hai fatto?» Lui risponde freddamente: «Sì, ho appena sparato a John Lennon». I primi poliziotti a arrivare sul posto sono Steve Spiro e Peter Cullen, che ricorda così quel momento. Prendemmo la chiamata e ci dirigemmo verso quella zona. Mi ricordo che dissi al mio partner: «Andiamo piano, potrebbero essere i cinesi che festeggiano l'anno nuovo in Central Park». Ma un cittadino mi disse che avevano sparato a qualcuno e così scoprimmo che non erano fuochi d'artificio. Ci avvicinammo con cautela e vedemmo Lennon a faccia a terra che sanguinava abbondantemente. John Lennon viene trasportato d'urgenza dagli stessi poliziotti al vicino Roosevelt Hospital, dove viene accolto dal dottor Stephen Lynn. Non sapevamo chi fosse il paziente fino a quando non prendemmo il portafoglio per l'identificazione. L'infermiera non poteva credere che fosse John Lennon, fino a quando non trovammo almeno $10,000 in contanti nel portafoglio. E allo stesso tempo Yoko Ono entrò nel pronto soccorso. Così capimmo che avevamo a che fare con il vero John Lennon. Aveva 4 ferite da proiettile, 3 nella parte sinistra superiore del busto e 1 nel braccio sinistro. Tentammo il tutto per tutto lì, nel pronto soccorso. Gli aprimmo il torace, tenni il suo cuore tra le mie mani, ma ci accorgemmo che tutti i vasi sanguigni principali erano stati completamente distrutti. Non c'era modo di salvarlo. There would be no way to reconstruct them and no way to save him. John Lennon was brought to the emergency room. John Lennon è stato portato al pronto soccorso del Roosevelt Hospital questa sera, pochi minuti prima delle 23. Era morto al suo arrivo. He was dead on arrival. E Mark Chapman? E lui rimane impassibile dopo aver sparato, prende in mano il suo libro e si mette a leggerlo apparentemente calmo, non oppone resistenza al suo arresto e si dichiara colpevole, viene accusato di omicidio e viene condannato all'ergastolo. Dopo oltre 30 anni trascorsi nel carcere di Attica, nel 2012 viene trasferito in quello di Wayne, sempre nello stato di New York. Chiede 8 volte la scarcerazione e gli arresti domiciliari e per 8 volte gli viene negato qualsiasi sconto alla pena. Il pensiero dei giudici e degli psichiatri è che lui sia tuttora pericoloso e debba restare in prigione. È la stessa convinzione di Yoko Ono, la vedova di John Lennon. So che il Papa è andato in prigione a visitare la persona che aveva tentato di assassinarlo e lo ha perdonato. Io non sono il Papa, E per me è impossibile perdonare quello che è successo. Ma io non voglio pensare alla persona, perché è irrilevante. Non conta chi è stato. Conta solamente un fatto, che John non c'è più. E questa parola irrilevante suona come una sentenza nella psiche di Mark Chapman. È irrilevante, ma John non c'è più. La perdita di un personaggio come John Lennon è una perdita veramente grave in quegli anni, anche per la grande sensibilità che John Lennon mostrava nei confronti dei problemi del mondo. Tutti quelli che sono arrivati dopo, gli U2, tutta questa gente, in realtà stanno solo seguendo il percorso delineato da John Lennon, che aveva la convinzione che un cantante potesse intervenire anche nei grandi problemi del mondo per cambiarli, e oggi sappiamo che non è più così. Ci sono i talent show e gli One Direction. Una mancanza che è talmente grande che perfino Forrest Gump, nel suo film, a un certo punto incontra John Lennon. Ed ecco a voi Forrest Gump, signor. Signor Gump, si accomodi. Allora, Forrest Gump, John Lennon. È tornato a casa. Ha fatto un grosso viaggio. Può dirci com'è questa Cina? Beh, nel paese della Cina la gente a stento c'ha niente di niente. Nessuna proprietà? E in Cina loro non vanno mai in chiesa. Nemmeno religioni. Ah, difficile da immaginare. È facile se ci provi, Dick. Qualche anno dopo, quel simpatico giovanotto inglese tornava a casa per vedere il suo figlioletto. E mentre firmava degli autografi, non so proprio perché, qualcuno gli sparò. Persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, ma anche arrivare in basso fino agli abissi della follia, come la storia che abbiamo raccontato oggi, quella di Mark Chapman, che ha avuto una terribile caduta dentro alla sua stessa pazzia. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui volete che noi si punti il nostro microfono, fatelo, scriveteci al falcoelgabbiano@radio24.it. Ciao, a domani. What could it mean? It was dark in a dead room. As I slithered under, Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.